rendendo frati comunque. Sono un po' senza vederlo. Allora, Daniele, se non erro, rimane in magazzino adesso. Ah, ecco, ah, così. Sì. Io li conosco da anni. C'è Pietro, il grande, che poi conosco anche la sorella, Gianna. Insomma, Pietro faceva pescava, faceva ricci, questa roba qua. Adesso invece è entrato a consegnare roba di bucalo, patatine, nei negozi, quindi ha mollato un po' la pesca. Alessandro invece fa desinfestazione di topi, zanzare, mosche, balle varie, e più fa la raccolta dell'olio. Diciamo che Daniele non ci ha messo di balle. Andiamo a in balle posto di lavoro. È troppo esagerato. Questo non te lo so dire perché non l'ho mai. Cioè, sul lavoro non lo so. Però vabbè, io conosco da ragazzino, quindi sul lavoro magari gli ha dato al. Non si dice le. Responsabilità e quindi deve farla andare. Ho capito, ma dimmi a te che ti mandi i mammelli così, si mollaghi se fai chiso, fammelo venire lo manco, capito, quello sto dicendo. La cosa si fa bene, non mollaghi se no, no, e te tu, vabbè, lasciamo, poi parliamo a quattro occhi, da. Ho capito anche perché sono andato. Ho mandato anche mio cognato a lavorare, quindi so come la persona, ma sinceramente poi ognuno deve far valere quello che sa fare, giustamente uno deve comandare. Ho capito, sì, ah cazzo, comandare ci sta, ma cazzo va a fare un coso, un ziracco. Non so cosa dire, uno si deve parlare all'inizio, così almeno evita di bisticciare. In un secondo momento. Cazzo. Mi ha giugarrato già, sì, una carriola, ma a metri cubi, 6 metri. Cazzo, una volta mi hanno chiamato, per la prima volta lì a Sant'Orsola. Ma d'estate, un culo, non finiva più questa cosa, non finiva più, Tino, te lo giuro, non finiva più. Praticamente erano 12 metri di roba, 6 metri di sabbia e 6 metri di quella ghiaia grossa, però quella pietra là per fare il fondo. Non finiva più, Tino, non finiva più. Io lo so, come l'hai portato con la carriola? E allora, non finiva più, cazzo, è diventata cosa, cos'è sta? Non finiva più, te lo giuro qua. Per conto, dalle 8 di mattina ho visto alle 8 di sera. Vabbè, solitamente, io non so se c'è il posto o meno, comunque solitamente quelli lì si utilizzano una mini para e la carriola quella con i cingoli, oppure con un mini escavatore. E il posto non c'era, no? Questo con la carriola potevi passare, sì, capito? Ma un culo, guarda, vabbè, già ti paga bene, no, Alessandro già è in gamba, no, niente da dire, va. Alessandro è in gamba, paga bene veramente, ti offre il pranzo, ti offre la colazione, il pranzo, il tipo ti offre pure la cena, quando sei fuori, che dormi fuori, ti offre anche la cena, no, ma su quello, guarda, ti sarei cazzo un coglione, no, vai, è in gamba, per quello, ti paga bene, però le ore lì, le conti, e come sono i conti? Le vedi tutte? Lo so, è un lavoraccio, però giustamente, dove non si può fare con i mesi, bisogna farlo a mano, purtroppo così. Però esiste anche una carriola motorizzata, l'ho utilizzata anche io lì a Punta Giglio perché c'era da salire in una rampa abbastanza ripida e credimi, con la carriola veniva male. Con questa qua invece è per portare ghiaia, poi si ribalta da solo, si alza il carrello, capito? La caricavo col mio escavatore e poi andavo su con quella lì e la scaricavo, mi portava a me addirittura perché aveva la pedalina, no? Ti mettevi sopra e portava. Però sono molto ripida, si impennava, allora saliva a ritrovarci. Però è utile. Allora, quel culo ce l'abbiamo fatto lì a, non mi ricordo che zona è, non ricordo mai il posto. Comunque scendendo, non mi ricordo la zona, questa villa bella, praticamente c'era questo passaggio pedonale in cemento, no? In salita. Tu pensa, la sabbia giù, sai che erano 5 metri, 6 metri di sabbia, e da lì caricarla da giù e spingere la canna fino a casa, un culo lì, tutta la tana di Ussi, tutta la santa lì. C'ho anche il video, aspetta. Ehi, io ci credo perché sono dei lavori che insomma sono particolari, dai. A volte ci vuole molta manevolanza, a volte invece basta qualche mese in più per poter fare questi lavori qua. Io ho lavorato dal 2020 con loro, lasciava dare. Se c'ho quel famoso video, vediamo. Grazie. E non mi altro mando, non mi non provagliami più. Troppa stanchezza, sì, aspetta, ma sto mandando. È troppo caldo, ma poi mi ha mandato via il padrone, via. Noi ci abbiamo fatto il bagno in piscina. Mi ha mai dato il video. Ti va giù risati. Ancora non è arrivato niente, cioè. Non ancora niente, forse sta caricando. Sta caricando, ti dà il tempo. Ti arrivo. No, quel giorno lì sono divertito. Alla verità, avanti, non mi posso dire come divertivo, Abbiamo dormito anche a... Allora, una volta abbiamo dormito, dove forse abbiamo dormito? Una volta a coso, a... siamo andati, solo un momento, prima una villa, vabbè, no, prima a coso, a San Teodoro, e poi siamo andati a fare una villa, lo stesso anche lì un casino, grazie, vabbè, lì già era più così, dai, fa la carriola, bisogna essere in due, se va la carriola, la sabbia, portarla su, scaricarla, riscendere, stata di così in manna, poi iniziare a fare il piano, a mettere il coso antivegetativo, chiodarlo bene, e poi il tratto tagliato, polato su, inchiodato bene, insomma è un lavoro pesante, abbastanza. Lo so che è pesante, purtroppo, però così c'è pur qualcuno da fare. Non mi è mai piaciuto, sono anche la possibilità di farlo, ma non mi interessava. Tu pensa che volendo potevo entrare anche a lavorare con la Simmobile, così a fare trasporti di mobile, balerare, l'ho provato per forse credo 6 mesi, una cosa del genere, e tu non è trovato a me, no. Sembrava più facile, invece faticoso anche quello. Lo so, no, questo è pesante, sì, lavoro molto pesante. Tu pensa che un rotolo pesa intorno ai 100 kg pesa. È un casino, poi quello lì è tutto un insieme del lavoro, la sabbia, poi a rullare, quello ti porta, è pesante comunque, con questa cosa, questo rullo pieno d'acqua dentro, di tirare, poi una volta, insomma, poi una volta che tagli il pezzo, lo devi pettinare con la macchinetta, poi prendo, piegarlo, portarlo, metto in posizione, tagliarlo, vabbè, quello lo facciamo loro, già ce n'è pesante. No, però guarda, mi sono divertito un sacco, ti devo una bugia, guarda, un sacco. Sì, dai, diciamo che se c'è le persone giuste, la collaborazione, si va avanti, dai. Comunque da stare caricando, cazzo, questo un bevi buoni. C'è la connessione attaccata. Non meno che, no, ma già c'era la linea. Sì, vabbè, già ti arriverà, è a metà. Allora, è pesante. Ma bello, guarda, il giorno c'è un po' di caldo. Sai che lì, poi quel punto, adesso non mi ricordo che cacchio l'avevamo, mannaggia. Aspettavo qua chiudere la Filippo. Ancora non è arrivato niente. Andare. Vediamo un attimino, bla bla bla. No, molto ancora. Sto cercando un motore per non prestare carne. Sì, è più della metà adesso, sta arrivando. Sai perché sta è così lento, Sicuramente perché è pesante. Avrei visto Lazio, cazzo, non si dice, ma franciccia. Adesso è arrivato lui. Ho sganciato la connessione di casa e ho lasciato quella di connessione ad altri, è arrivato subito. Comunque avevo maglietto. Mi avete da dire, poi il giorno vabbè lì tiriamo di vento e giorno c'era un po' di e lì per lì c'è fuori il bagno, no, comunque c'era caldo e avessimo fatto poi ci siamo asciugati bene e ce ne siamo andati a casa. Ma questo è fino al lavoro? Quello è fine giornata di lavoro. Già va bene. Cioè, dove cazzo ti danno tutto spesato, tutto me? Tu ne spendevi un euro, ci credi? Con l'altro è pagata da lui, pranzo. Se stavi ti pagava anche la cena e gli partiamo un bel di soldi, vabbè, guadagna va bene. No, Alessandro, guarda, guadagna va bene, cioè guadagna la grande. Bello. No, vabbè. Sì, lo so, sono ben provati questi microfoni qua, ma ve li conosco. E poi sta contando di un avvocato, c'è un avvocato pure le mutande, ci sono due ragazzi, guardi, risati. Cioè, un lavoro molto pesante, però poi una volta che finivi, che ritiravi tutto, vabbè, stanco morto. Poi Lucia, vabbè, se rientravi a casa, io andavo anche, a casa arrivavo anche alle 10 di sera. Però in compenso, vabbè, 10 di sera, tra una cosa e l'altra, cenavi, poi dovevo macchiare di nuovo alle 5 in piedi, ripartire per un altro paese, insomma di Buracaglia in una busta, e siamo di qua. E dipende, secondo me lavoro mangiamo panini, sto sfasato da lui. Dipende dove c'è il lavoro, si va, giustamente. Non c'era problema di... Oso, il viaggio che ti stancava di più, non tanto anche il viaggio, dai. Se fatti conto, 2 ore in banana, ma 2 ore in banana, se già 4 ore, e ti stancava un po'. Comunque, vabbè. Adesso stava parlando un altro mio amico, faceva il panettiere prima, e facevo quel lavoro lì. Vabbè, il panettiere si sa che è un lavoro... non avevi vita. No, perché è troppo sacrificato. Dopo lui, devo lasciare qua, c'è Casotto e insomma, non fate una radionata e se no disturbo che stanno facendo i compiti. Sì, non ti preoccupare, ciao. Io già lascio accesa qua, c'entra qualcuno, bene. Via, va bene, ragazzi, si ascolta più tardi, ma ciao. Cercare la soluzione giusta, ma c'è stato l'anticipo su Demiral che era andato a saltare la concetta. La spinta di Monte Lavrato, 5.000 questa sera ovviamente non c'è.